Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, buonasera, buonasera, eccomi qua, Addu, tornata con voi sulle frequenze di Radio Wombat. Siete qui con Nervature come ogni lunedì alle 19. Nel mio universo sono le 19.02, non so con quanto ritardo può essere arrivata da voi la mia voce. Comunque ci siamo qui anche oggi, questo lunedì 24 febbraio, siamo allo scadere di questo mese. Quindi oggi sono qui in regia da sola, anche se in realtà dopo mi farò aiutare da qualche altra voce amica, ma siamo qui quindi insieme per un'oretta e mezzo, quindi circa fino alle 8:30, e oggi un po' una puntata patchwork, così mi piace definirla, quindi parleremo insieme di varie cose, ma in modo... c'è il... cavo del microfono che è simpatico, quindi parleremo insieme di varie cose, e un po' di commenti sulle puntate passate, un po' di commenti sull'avvenire e poi ci lanciamo insieme in un primo carino argomento. Direi di partire subito però con un pezzo prima di così intanto rilassarci subito, quindi questa è 16 Tones di... non lo so di chi è in questo momento, però ve lo dirò poi. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. A muscle and blood and a skin and bones. You've got a mind that's weak and a back that's strong. You load a 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Say, Peter, don't you call me, cause I can't go. Say, Peter, don't you call me, to the company store. Don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Come on. Sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal and the strong boss said, well, bless my soul. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Yeah. I was born one morning in the drizzling rain. Fighting in trouble have been my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama like. And oh, I had a tone of woman make me walk the line. Yeah, 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. See me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron and the other is steel. If the living don't get you, then the right one will, you load a 16 times. Another day older and a deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I can't go. To the company store, St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store, 'cause I can't go. Ed ecco, l'ho scoperto, questo era Geoff, credo, Castellucci. Sì, abbiamo iniziato un po' così, con una voce un po' suadente, un attimino suadente. E, tra l'altro, ecco, avevo il video così sott'occhio e noto che non so bene per quale ragione, ma comunque nel video c'è lui, sempre lui ripetuto in una schiera... Diciamo, sempre lui sul... Ah, ecco, anche il video dopo è uguale. Si vede che è il suo format dei video, non lo sapevo. Comunque, ecco, quindi c'è lui seduto su una sedia, accanto a lui un altro lui seduto su una sedia e così via. E quindi nella canzone che avete appena sentito, no? Questa che c'è di sottofondo, ogni lui ha in mano un attrezzo agricolo, per l'appunto. Quindi uno c'ha una vanga, un piccone, un mazzuolo... E l'altro non si vedeva, suppongo fosse una zappa, però così un po' a sentimento. By surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom. Mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. The Igor on the stage, backed by his hounds. The coffin bangers were about to arrive. Transylvania twist. It's now the monster mash. And it's a graveyard smash. E niente, questa non era minimamente programmato questo pezzo, però ormai è andata così, tra l'altro completamente fuori contesto, perché mi sa che era un pezzo di Halloween, a giudicare dal video e dal titolo, dalle parole, Monster Mash, quindi sembrerebbe... A proposito, strilli vari, vampiri che appaiono dietro le quinte. Bene, bene, no, allora questo tappetino, vabbè, ce lo siamo gustati finora, ma basta così. E che dire, quindi, che dire? Oggi sono qui da sola, come vi dicevo, e volevo un attimino così fare un po' un sunto di cose che abbiamo detto in passato, in particolare riguardo a di nuovo il libro La rivoluzione del filo di paglia, e facendo così due commenti veloci, niente di preoccupante, state tranquille, tranquilli. Ma prima di questo vi do qualche info di eventi interessanti all'orizzonte, ma anche passati. E prima di questo, però, ancora, attenzione, non ho ancora ricordato i contatti della radio, perciò oggi è un po' così tutto in divenire, tra cui anche la connessione internet, vedo, di questo computer che non mi sta aiutando. Va bene, quindi siamo su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Lo sapete, lo sappiamo ormai, ci ascoltate sulle 13.59 delle AM oppure in streaming dal sito radiowombat.net. Sito il quale vi consiglio vivamente di spulciare, perché trovate tutti i podcast e tutte le trasmissioni attive e non attive. E, che dire, poi ci trovate anche, lo potete vedere dalla sezione contatti del sito, sul pad, il pad che è un foglio di testo condiviso, quindi voi lo aprite, scrivete un po' come Word e in questo modo potete chiacchierare in diretta con me, appunto. E il link, se non volete arrivarci tramite la sezione contatti, è direttawombat.vado.li. Quindi trovate già un piccolo invitino che vi ho scritto, scrivete qua sotto e niente, provateci, ecco. E, niente, allora qui ancora la connessione non mi sta aiutando, però vabbè, cerchiamo di fare senza, come dire, di trovare una soluzione a questi problemi tecnici insolvibili. E, quindi direi che inizierei subito a dirvi un po' gli appuntamenti di cui vi accennavo pochissimo fa. Allora, intanto, un po' di settimane fa precisamente era il il 9 febbraio sono stata a uno scambio semi al castello di Sorrivoli. Era una giornata intera organizzata e la mattina c'erano anche dei laboratori di pasta madre, di innesto, di cesteria, alla fine c'è stato anche, e il pomeriggio invece era più dedicato appunto propriamente allo scambio semi. Io sono stata il pomeriggio, quindi ho visto quella parte lì. E devo dire che è stato un evento super super super bello, quindi ci tenevo un po' a fare un commento molto rapido, perché eventualmente il prossimo anno, ecco, sappiate che esiste questo evento più o meno sempre in questo periodo, febbraio. E, bello perché, beh, a parte la location, il castello di Sorrivoli, ma a parte ciò era veramente uno scambio semi pensato, o comunque se non altro frequentato, da veramente amatori, direi, quindi appassionati del verde, delle piante, dell'orto, soprattutto piante orticole, ma non solo. Con grande gioia ho notato che c'erano anche vari semi di fiori, alberi anche addirittura, quindi veramente veramente bello. E ho apprezzato tantissimo l'umanità, proprio perché, non essendo ovviamente un evento con fini commerciali, quindi non c'era scambio di soldi praticamente da nessuna parte, se non qualche offerta libera dei banchini che davano magari degli opuscoli, dei libri autoprodotti, autostampati e cose del genere, a parte ciò non c'era scambio di soldi. E non tanto per il fatto in sé che non circolassero soldi, nonostante credo che sia una bellissima cosa a priori, ma ho notato veramente piacevolmente che questo ha generato una situazione, diciamo, logistica veramente diversa dal solito. Quindi, per spiegarvi, c'era una grande sala, corridoione più che sala, e con ai lati dei banchini, ognuno si poteva piazzare lì. Ora, io non mi sono piazzata, sono stata a giro, ma chiunque penso potesse farlo se arrivava abbastanza in anticipo. Quindi si piazzavano lì con i loro semi, le loro bustine, e chiunque si presentava al loro tavolo poteva prendere, chiedendo magari per cortesia, ma ecco, era proprio uno scambio libero. Quindi ognuno poteva prendere e magari dare in cambio qualcosa se quell'altra persona era interessata o interessato. La cosa bella che ho visto è che, siccome ogni banco era tenuto da persone, gruppi di persone a volte diversi, ognuna era organizzato a modo proprio. Quindi c'era chi aveva le bustine di carta, c'è chi aveva il giornale ripiegato, c'è chi scriveva a mano su dei fogli lì per lì, c'è chi aveva già invece le etichette stampate con un logo anche di, non so, della loro realtà. E c'è chi invece aveva le bustine di plastica che si chiudono apposta, insomma veramente una biodiversità, per così dire, di organizzazioni, di diciamo ecco banchetti in generale. E oltretutto io, per esempio, come vi dicevo che non avevo il mio banco, ma ero in piedi con il mio sacchettino di semi propri, girellavo, e le volte mi fermavo a un banco, chiedevo, guardavo così, ma c'era molta più libertà, nel senso di proprio molta meno vergogna e imbarazzo nel toccare quello che c'era sul banco. Quindi appunto magari mi fermavo a un banco che era pieno di barattoli con i semi o di bustine con i semi, senza chiedere, senza farmi problemi, prendevo il barattolo in mano, lo guardavo, me lo rigiravo, potevo anche aprirlo, potevo toccare dentro, cioè, e quelli del banco non mi guardavano male. Voglio dire che io ho fatto questa mia riflessione personale, che siccome, credo diciamo che il motivo fosse questo, siccome non c'era scambio di soldi, chi teneva, chi aveva il proprio banchino, non aveva paura che gli altri, per esempio, rubassero. Perché che cosa rubi? È qualcosa che non ha un valore monetario, ha un valore enorme di altro tipo, ma non monetario. Perciò non era proprio plausibile, non so come dire, il concetto del furto. E quindi si creava automaticamente veramente un clima disteso, piacevole, favorevole. E quindi appunto io non mi facevo problemi a prendere le bustine sui tavoli, come non mi facevo problemi a appoggiare il mio sacchettino di roba sui tavoli, mentre, insomma, per liberarmi le mani, no? Per fare. E c'era proprio veramente grande, grande, grande tranquillità in tutto l'ambiente, ecco. E quindi questo era un po' per raccontarvi questa mia piccola esperienza personale, che appunto, come avrete capito, consiglio vivamente. Che cosa anche ho trovato allo scambio semi al Castello di Sorrivoli del 9 febbraio? Ho trovato anche un interessantissimo banco di libri. Purtroppo l'ho visto solo alla fine, quindi, ma forse meglio, avrei potuto comprarne metà banco probabilmente, altrimenti. Comunque, quindi dicevo, interessantissimo banco, che era un po' una raccolta di vari libri militanti, di collettivi, di spesso anarchici, ma non solo, o comunque di approfondimenti su varie lotte sociali, veramente, veramente, veramente interessante. Oltre a questo, come accennavo anche prima, c'erano anche degli opuscoletti in un altro banchino, anche quelli liberi, anzi, com'era, offerta libera. Sempre riguardanti l'autoproduzione oppure il do it yourself o comunque anche in quel caso diciamo dei manifesti di collettivi politici e cose del genere, molto molto bello. E altra cosa che ho trovato era una prelocandina, diciamo un volantino per uno scambio piantine. Quindi attenzione, non più scambio semi, ma scambio piantine, che si terrà l'11 maggio 2025 a Forlì, a Le Case Franche, ovvero in via Il Sentiero 25, San Martino di Villa Franca, appunto a Forlì. Interessante perché prima uno fa lo scambio semi, quando torna a casa li semina e poi, bene, tra febbraio e maggio comunque quei semi saranno un po' cresciuti o parecchio cresciuti e quindi perché non organizzare uno scambio piantine? Mi sembra più che logico. Quindi, ripeto, 11 maggio a via Il Sentiero 25 a Forlì c'è uno scambio piante. E, molto molto interessante. Ma invece un altro eventino in quest'ambito è invece più vicino a noi, molto più vicino, ovvero sabato 1 marzo, quindi questo sabato, c'è un carnevale dei semi, quindi anche in questo caso uno scambio dei semi, che si troverà a Pontassieve, al Circolo Culturale Contadino di Colognole, che è via del Palagio in Colognole 42, a Pontassieve appunto. E, alle 15 scambio di sementi e a seguire contadini in circolo. Ore 21 veglia a ballo in maschera, quindi per quello hanno unito un po' carnevale e semi. It's a mixture of colors. Sì, sta andando un po' a scatti, non è perché ho un vinile sotto mano che salta, purtroppo, ma è perché i soliti mezzi tecnici della radio che danno qualche problemuccio ogni tanto, ecco. Però noi non ci scoraggiamo e troviamo soluzioni alternative in modo estremamente veloce ed efficiente, efficace. E, allora, comunque, quello che vi volevo far sentire adesso, invece, è due piccoli audio che ho potuto fare sempre nella solita giornata, appunto, dello scambio semi a Sorrivoli. E, uno è semplicemente, appunto, un mio amico che vi racconterà una sua pianta storia, che era da tempo che lui me l'aveva raccontata e io la volevo registrare, perciò si è trovata l'occasione. E l'altro, invece, vabbè, lo sentirete meglio dopo. Comunque l'altro appunto è un ragazzo che ho incontrato sempre lì allo scambio semi, che mi ha parlato di Fukuoka e quindi in un certo senso, diciamo, mi ha parlato di Fukuoka, quindi ci ricolleghiamo, come vi accennavo in apertura di puntata, a questo argomento dell'agricoltura naturale. Nel frattempo direi che proviamo a sentirci un bel brano di Fatboy Slim. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now. Sono Andrea di Faenza, sono un grande amico di Addu, mi è venuto a trovare qua a Faenza, siamo in Romagna e oggi stiamo andando a uno scambio semi, molto figo, Addu non c'è mai stata qua da noi. E niente, mi chiedeva di una storia buffa da raccontare sulle piante, appunto, come si chiama? La pianta storia. La pianta Eccoci storia. Qua, benvenuti a tutte e tutti, questa è la pianta storia di Andrea. E questa è la pianta storia di mio nonno. Mio nonno custodiva gelosamente i semini di un pomodoro che non so da quanto tempo si tramandavano, e era un pomodoro giallo che cresceva d'estate, molto buono perché rimaneva vuota al suo interno, quindi scavavi facilmente i pochi semi che aveva e diventava un contenitore. Il pomodoro era abbastanza compatto e d'estate era utile perché in questo contenitore ci potevi mettere il formaggio spalmabile, aromatizzato con le piante aromatiche, con il timo, l'origano, quello che volevi, ed era un ottimo piatto per l'estate, molto molto buono. E questo pomodoro tutti gli anni veniva coltivato e si tenevano i semini e poi dopo si ripiantavano e insomma per anni abbiamo continuato così. Poi mio nonno è iniziato a stare un po' male, non è riuscito più a gestire l'orto e poi è subentrato mio zio, mio babbo, insomma le generazioni successive hanno continuato a coltivarselo nei loro orticelli, e fino a che qualche anno fa, 2 o 3 anni fa mi sembra, questo pomodoro si è incrociato con gli altri pomodori dell'orto perché non ci veniva più giallo. Era rosso, era anche un po' cambiato di consistenza, era diventato rosso. E quindi mio babbo, disperato, va a cercare i semini che magari ne aveva conservati di 2 o 3 anni prima. Niente, questi semi non si trovano. Quindi, niente, pensiamo, dai, il prossimo anno magari è giallo, niente. Avevamo il pomodoro rosso. Il problema è che anche mio zio magari si teneva i semini, anche lui magari nell'orto si ricoltivava, ma con qualche screzio familiare, un po' di qualche litigio, insomma, non siamo mai più riusciti a riprendere questi semini e quindi adesso siamo senza. In realtà abbiamo il pomodoro che è rosso, ce lo teniamo così. Accidenti, quindi c'è stato un cambio di etnia repentino. Non avete più il pomodoro giallo, adesso è rosso, quindi. Esatto, è diventato un banale e comune pomodoro rosso. Vabbè, però è importante tramandare questa storia, è bello comunque sapere che c'era il pomodoro di famiglia, adesso è un po' cambiato, ma intanto insomma è una storia importante la vostra famiglia. Esatto, la racconteremo ai nostri figli, ai nostri nipoti, sperando che prima o poi qualcuno di loro possa magari riconvertire quel pomodoro, oppure si fa pace in famiglia e si ritorna ad avere i pomodori. Ecco, anche questa mi sembra una buona ipotesi di soluzione. Grazie Andre, questa era la Pianta Storie e ciao ciao a tutte e tutti. Prego, a tu. Ciao a tutti. Ciao Claudio, sono Addu. Sei qui invitato ospite su Radio Wombat, su Nervature, e ti chiedo una tua pianta storia e come mai le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori lo scopriranno nell'arco durante appunto l'ascolto di questa storia, perché è molto collegato a un argomento che ormai che ci teniamo molto appunto su Nervature. Quindi è una tanta storia particolare e ti lascio a te il microfono. Ok, allora la storia che ho da raccontare riguarda il riso di Masanobu Fukuoka. Abbiamo ricevuto in dono una manciata di semi, non di più, di questo riso. Sono i semi originali tramandati da Fukuoka ai suoi allievi che tuttora sono viventi in Giappone, alcuni sono molto anziani, alcuni sono più giovani e stanno cercando di portare avanti questa tradizione, e sono arrivati in Italia a noi attraverso Kutluan Özdemir, che è questo ragazzo che sta diffondendo in Italia il metodo di Fukuoka e che è in diretto contatto con gli allievi originali del maestro. Portato in Italia. Oddio, cosa sta succedendo? È diventato un Claudio robotico. No, scusate, proviamo a... cos'è successo qua? Allora, vediamo se si riesce a ripristinare la questione, per così dire. Ed eccoci, eccoci, scusate questo piccolo disagio tecnico. Ora eccoci qua. Sono viventi, anziani, stanno cercando di portare avanti. E sono arrivati in Italia a noi attraverso Kutluhan Özdemir, che è questo ragazzo che sta diffondendo in Italia il metodo di Fukuoka e che è in diretto contatto con gli allievi originali del maestro. Ha portato in Italia una certa quantità di semi e ha cercato di distribuirli tra i vari amici in modo che tutti potessero provare a propagare il seme originale di Fukuoka. Noi ci abbiamo provato 2 anni fa, non è andata proprio benissimo, nel senso che noi non siamo degli esperti agricoltori, mai e poi mai avevamo pensato di piantare del riso, quindi diciamo che ci abbiamo provato. Il primo anno è cresciuto, ma non a sufficienza da poterci dare poi della semente da propagare. Ci abbiamo provato l'anno scorso e ancora non ci siamo riusciti. Abbiamo l'ultimo tentativo, la semente è invecchiata un po', ma dovrebbe essere ancora germinabile, diciamo. Ne abbiamo proprio una manciata e quindi quest'anno proveremo a fare l'ultimo tentativo e se no cercheremo insomma in futuro di procurarci altro riso e vediamo, cioè, se riusciamo. E come dicevi, appunto, lui ha diffuso questi semi non solo a voi, anche a altre persone, quindi c'è un po' questa prova nazionale che sì, sta andando. È un lavoro avanti. Di gruppo, è un lavoro collettivo, ognuno nel proprio piccolo ha cercato, chi in terra, chi nella serra, chi in un vaso, ognuno con i propri metodi, con le proprie conoscenze e con gli spazi che aveva a disposizione, ha cercato di portare avanti e dare il proprio contributo a questo progetto. Un po' alla volta speriamo che qualcuno riesca a duplicare questi semi e che riusciamo a crearci proprio una piccola riserva per portare avanti anche qua il riso di Fukuoka. Bellissimo. E comunque, nel caso non andasse, vorrà dire che non è il seme giusto, il tipo giusto, la varietà giusta, magari per l'Italia. O il momento giusto, certo, vedremo. Certo. Non forzeremo la cosa. Assolutamente. Grazie per questa testimonianza. Grazie a molto te. Importante. Grazie ciao. Mille, ciao. in hand, fist, hand. On, back, straight, back, deep, e quindi avete appena sentito le due voci di Andrea e poi Claudio, quindi due veramente belle piantastorie. Ah, ecco, mi ero scordata di mettervi la sigla della piantastorie, vabbè, ormai è andata, non importa. E quindi tramite quest'ultimo, quindi la storia di Claudio e del riso, mi ricollego a, come vi dicevo, qualche commento che mi interessava dare riguardo al libro La rivoluzione del filo di paglia. Allora, intanto un po' un disclaimer, è il, mi sembra, il terzo audiolibro che facevo qui su Nervature. Il primo è stato E il giardino creò l'uomo, il secondo è stato La nazione delle piante, e quindi, scusate, E il giardino creò l'uomo di Jorn de Précy, poi La nazione delle piante di Stefano Mancuso, e poi per ora appunto siamo arrivati alla rivoluzione del filo di paglia di Masanobu Fukuoka. E nonostante avessi pensato tutte e tre queste volte di farlo, poi non l'ho mai fatto, ma la mia intenzione era poi di ricommentare alla fine appunto degli audiolibri, commentarli insieme, magari darvi le mie impressioni. Non l'ho mai fatto perché le mie impressioni personali non sono abbastanza per fare una puntata, capite bene. E era anche una cosa poco importante, diciamo, parlare solo delle mie impressioni personali. Però in linea generale vi voglio far sapere, ormai ve lo dico adesso, anche se con discreto ritardo nei due primi casi, quando decido o ho deciso di condividere questi audiolibri con voi è perché sono libri chiaramente che parlano di piante, ma che mi hanno dato degli spunti di riflessione veramente nuovi. Il che non vuol dire che io sia d'accordo con tutto quello che c'è scritto nel libro. In particolare, appunto, su tutti questi tre i libri questa regola vale, in un certo senso. Appunto, tutti e tre sono libri che mi hanno fatto riflettere un sacco, in alcuni casi mi hanno anche divertito e appassionata. Però appunto alcune cose ci ho riflettuto, è stato interessante, ma poi mi sono detta no, ok, non sono d'accordo. Allora, senza stare a rivangare il passato, che mi sembra decisamente fuori tempo ormai, quindi non parlerò dei primi due audiolibri, ma invece, già che non sono così in ritardo, vi lascerò qualche commento riguardo alla la rivoluzione del filo di paglia. prima di questo magari vi ricordo il link del pad per parlare e chiacchierare con me in diretta, direttawombat.vado.li. Questo è il link che potete appunto digitare nella barra del browser se volete appunto farmi domande, commenti, anche solo saluti o qualsiasi altra cosa. direttawombat.vado.li. Quindi cosa dire, cosa commentare di questo libro, La rivoluzione del filo di paglia, Masanobu Fukuoka? Allora, è stato un libro bellissimo dal mio punto di vista nel leggerlo, proprio perché mi ha, devo dire, aperto ai concetti dell'agricoltura naturale, i quali io non avevo effettivamente mai sentito parlare in modo approfondito, qualche concetto sì, ma mai... diciamo visti in una rete, in una filosofia anche possiamo dire più complessa, e quindi mi ha ovviamente affascinato da questo punto di vista, in particolare diciamo sì, un po' il fulcro fondante dell'agricoltura naturale, ovvero il fatto che la terra, il suolo, il terreno è ricco di nutrienti, cioè sarebbe ricco di nutrienti. Chiaramente poi magari delle certe pratiche o in certe condizioni quei nutrienti sono difficilmente disponibili, vuoi perché la struttura si è compattata troppo, vuoi perché il suolo si asciuga super velocemente, perciò appunto non c'è più quella umidità che dovrebbe rimanere costante, ma invece c'è un sacco di evaporazione, insomma per varie ragioni. Ma un suolo teoricamente sarebbe praticamente sempre fertile. Io ci tengo a dire, mettere un po' di paroline qua e là, tipo praticamente sempre, o tipo quasi, o tipo in quasi tutti i casi, perché immagino che magari in situazioni desertiche o in situazioni di estremamente rocciose, quindi dove la struttura, quindi ovvero le rocce, non disgregabili nel suolo, sono in quantità molto abbondante, il suolo vero e proprio in quel caso magari è talmente poco che forse è difficile, ecco, coltivare il riso, ecco, per esempio, o un qualsiasi altro cereale. Lo dico solo perché forse è anche ovvio da dire, però insomma mi sembra Fukuoka nel libro un po' generalista, nel senso che appunto dà delle frasi, dei postulati quasi sembrano un po' assoluti. In realtà se uno legge bene il libro, secondo me, si capisce che lui non era certo una persona stupida e che sapeva benissimo che quelli non erano di certo postulati assoluti. Ma è anche vero che si capisce che il suo modo di scrivere vuole trasmettere un po' questo. Quindi vuole essere un po' prosaico, secondo me, questa è la mia visione. Da un certo punto di vista è un fatto positivo. Perché? Perché se il libro si rivolge, come era pensato tale, infatti, a chiunque, ovvero tutte persone che credono che non c'è niente di male a usare un aratro, e allora serve un po' di forza nelle sue affermazioni per, appunto, ecco, affermare fermamente quello che lui ha visto nelle sue coltivazioni. Dall'altra parte non mi piace il fatto che sia prosaico, perché sa un po' di magari santone in un certo senso, quindi un po' troppo, ecco, un po' troppo di fede. Quindi a me mi ha affascinato il libro perché penso che i principi, per esempio, del risveglio della terra, del non distruggere la struttura del suolo e quindi anche tutta la microfauna e flora che lo abita, muovendo la terra, muovendo il suolo, penso che siano delle pratiche super interessanti a provare ad applicare. Chiaramente io non sono l'unica che le applica, tant'è che settimana scorsa avete sentito proprio Cutulan a questi microfoni che vi raccontava la sua esperienza preziosissima. Però ecco, non mi piace invece l'idea di idealizzare una persona, un concetto, una filosofia e seguirla un po' alla cieca. Questo ovviamente è una cosa che non mi piace. Mi piace invece provare, sperimentare, ragionare, osservare e semmai ripetere, ecco. Un'altra cosa che ci tengo molto a dire, anzi ci tengo molto di più a dire questa che quello che vi ho già detto, ma vabbè, è che un aspetto che non mi è proprio piaciuto del libro è il fatto che sia un po' di stampo religioso in un certo senso. Quindi, mi spiego meglio, non mi piace il fatto che si voglia andare verso la natura, natura con la N maiuscola, perché la natura è la cosa giusta, perché la natura è l'unica cosa, no, che non possiamo controbattere, ma andarci appunto alla cieca. Questo secondo me è un po' la tendenza nel leggere il libro, però per una ragione precisa. La ragione è che Fukuoka, nonostante se lo riproponga fin dalla prima pagina, in realtà non riesce a spiegare che cos'è il concetto di natura. Concetto che poi tanto astratto non è, in realtà, anzi, è molto molto pratico, molto molto vero e reale. Però appunto non riesce a spiegarlo, non so nemmeno se ci provi in realtà nei fatti. All'inizio dice che lo vuole spiegare, che vuole definire che cos'è natura e che cosa non lo è, però di fatto poi non lo fa più di tanto. Lascia un po' all'immaginazione, lascia un po' al sentire, il sentimento, che è qualcosa che io ho visto fare quasi sempre. Tant'è che io pure assolutamente non saprei dare una definizione di natura, anzi, lungi da me dal dire di essere in grado di farlo, assolutamente no. Però, ecco, un libro così tanto rivoluzionario, perché penso che lo sia, è un po' un peccato che, diciamo, abbia questa grossa mancanza sotto. Che cosa provoca secondo me questa mancanza? Provoca un po', appunto, come dicevo all'inizio, un atteggiamento di fede religiosa. Almeno io la definirei tale. Se non vi piace il tema religioso, levatelo, comunque una sorta di fede un po' cieca. Perché diventa una sorta di adorazione della natura, ripeto, senza ben spiegare che cosa sia la natura, ma vabbè. Quindi adorazione di qualcosa dell'esistente, che ci porta, secondo me, in realtà più ad astrarci da questa cosa, ad allontanarci da questa, piuttosto che a sentirci parte di questa, cosa di cui ovviamente siamo parte della natura, siamo natura stessa noi stessi. Quindi secondo me è un po' un meccanismo viziato, non so come dire, e rischioso. Penso proprio che sia rischioso perché, vabbè, come ho detto, perché secondo me ci allontana dalla natura in realtà, e poi perché ci porta, diciamo, soprattutto se questo meccanismo lo immaginiamo non nella singola persona, ma in un gruppo di persone, in una comunità o addirittura in un movimento, addirittura magari nazionale o globale, possiamo, secondo me, ipotizzare che diventerebbe un po' un gruppo di persone, un movimento superficiale. Dico questo perché, appunto, secondo me sarebbe un atteggiamento che impedirebbe, ostruirebbe un po' lo studio approfondito della, per esempio, della natura, dei processi biologici, chimici, fisici, eccetera. Chiaramente non sto facendo una critica a Fukuoka in sé, perché non credo che lui fosse così tanto incoerente come sto descrivendo. Anzi, lui cita mille milioni di volte che secondo lui la ricerca scientifica è molto più fuorviante che utile, è molto più scomoda e, vabbè, senza ora stare a entrare nei meccanismi magari di denaro e potere, che chiaramente purtroppo influenzano anche la scienza, però appunto lui proprio non ci fa assolutamente più affidamento. Io non sono di certo di questa opinione, sono più dell'opinione di, ecco, sia studiare che studiare altre cose, magari un po' meno scientifiche, e poi magari fare un po', diciamo, una tara, ecco. Ma direi che ho parlato fin troppo, mi sembra sia stato più che sufficiente questo mio commento, tant'è che, come vi dicevo all'inizio, non penso che io abbia delle opinioni così tanto importanti da dovervele per forza comunicare, ecco. A volte sì, a volte no, ma ecco, non è una cosa tassativa, diciamo. Dunque, allora, mi sposterei, quindi, anche perché penso che, ecco, stesse diventando anche un po' noioso come riflessione, come commento, mi sposterei invece sull'argomentino nuovo di oggi, che è una roba molto molto chill, come ci piace a noi ogni tanto, ci sono nervature proprio di rilassarci, di stare belli belli belli tranquilli, ma anche di, appunto, un po' sentire, un po' divertirci, muovere i corpi, sentire un po' il groove. Allora, perché non iniziare con un bel James Brown, Sex Machine? Hard working Mr. Dynamite, James Brown! Well, look here, I'd like to get up and do my thing. Okay, well, let me kind of move these things around here, you know. Let me just get up and do my thing, yeah, you understand? Can I really get into it? Yeah. Can I get into the thing, really? Yeah. Like a sex machine? Yeah. Moving? Yeah. Doing it? Yeah. Can I get into it? Yeah. Can I get into all our things? Yeah. We ready to get into it? Yeah. I'm going to count it off, Jab. One, two, three, four.

Sì, yellow, ma sì, ma scusate, ma non l'avete visto anche voi tutto questo giallo che c'è a giro? No, non potete non averlo visto, secondo me, non potete, non c'è verso, perché c'è un sacco di giallo a giro adesso. Come non nominare i narcisi, le mimose, dai, sì che l'avete visti, i ranuncoli, dai, stanno iniziando a fiorire tutti ora, meraviglia. The way I like it is the way it is. I got toes, don't worry about it. Stay on the scene like a love machine. Stay on the scene like a love machine. Stay on the scene like a love machine. Stay on the scene, huh? Sì, sì, sì, per esempio io volevo parlare delle mimose, cioè le mimose, cioè, sono bellissime, sono veramente bellissime, sono questo nuvola giallo canarino meravigliosa che si vede anche da lontano e che non può non dare gioia, un po' come, non so se anche a voi fa questo effetto, un po' come c'è la giornata nuvolosa e poi così a caso spunta un raggio di sole, cioè ciao, ti viene il sorriso per forza, non, anche senza volere inizi a stare meglio in realtà. Ecco, un po' uguale fa anche la mimosa, così all'orizzonte, bella, o quando passi in macchina, anche in città, poi ci sono anche in città le mimose, meraviglia. Sì, sì, sì, mimosa o anche acacia dealbata, questo è il suo nome scientifico. È un'acacia, come avete capito, e di acacia ce n'è tanti tanti tipi, ma sono tutte leguminose, volgarmente dette leguminose sarebbero fabacee, ovvero sono quelle piante fantastiche che hanno come relazione segreta, ma ormai non più tanto segreta, insomma, quella di simbiosi con dei batteri azotofissatori. Questa cosa per noi salvifica spesso in tanti casi nell'agricoltura tradizionale, perché i batteri azotofissatori, come dice la parola, fissano l'azoto. L'azoto, che è questo N, questo elemento N2 o NH4, NO3-, insomma tutti i vari, le varie forme possibili di azoto, a noi ci interessano tanto, perché alle piante fanno molto comodo e senza l'azoto le piante vanno veramente da poche parti. Infatti non so se avete presente, nelle vigne spesso si vede fare un filare su un filare no, che appunto un filare è col prato tagliato sempre o addirittura con la terra smossa un po' arata, insomma smossa non arata, e il filare accanto invece ha quest'erba sempre molto alta, a volte anche fiorita. E questo si fa anche perché nel filare appunto non diserbato ci si semina nel periodo giusto dell'anno delle piante che possono far comodo alle vigne. Classicone è appunto il favino, la fava o qualche erba medica, tutte piante appunto fabacee, come la mimosa. Ovviamente non seminare, non vi venga in mente di seminare la mimosa in mezzo ai filari delle viti, santo cielo. No, no, non vi venga in mente di farlo, perché la mimosa è un albero o un grande cespuglio, un arbustone, un piccolo albero, come la volete vedere, però ecco, non è una piantucola piccolina, quindi non vi venga in mente di seminarla in mezzo alla vigna. I think I'll go to Nashville too. Yeah. Over to Memphis. Yeah. By the way of Chattanooga. Yeah. Atlanta, GA. Yeah. Ma invece, perché no? Non provare a seminarla invece nel proprio giardino, magari in un vasetto, magari spunta qualcosa e magari poi lo piantate nel giardino e vi diventa questa nuvola meravigliosa tra febbraio e marzo, stupenda. Gialla, ovviamente gialla. E insomma, quindi Fabacia, cos'altro distingue molto spesso le Fabace, non tutte, ma spesso, è il fatto di avere foglie composte. Qui si ritorna un po' indietro alle vecchie lezioni di botanica. Beh, allora le foglie in una pianta possono essere singole, immaginate un tiglio, così, non ho detto una a caso, quindi belle fogliolone messe singole sul ramo, oppure composte, immaginate un frassino, o una rosa, o appunto una mimosa, perché no? Dove quindi c'è il ramo da cui parte uno stelo sul quale ci sono più di una foglia, tante foglie, 5, 6, 9, 13, 11, 10, a seconda della specie. Ecco, la mimosa è un altro esempio, quindi un'altra foglia composta. Ora forse ci sta che fatichiate a ricordarvi come è fatta la foglia della mimosa, non c'è niente di strano, ma magari vi viene in mente in questo modo. Vi è mai capitato di vedere dei video in cui c'è delle foglioline minuscole, piccole piccole, tutte una accanto all'altra, poi arriva uno, le tocca la cima magari di queste foglie e queste in meno di un secondo si chiudono. Vi è mai capitato? Ecco, se vi è capitato, sappiate che quella è un tipo di mimosa, non è quella di cui ci stiamo occupando oggi, ovvero la meravigliosa dai fiori gialli, Acacia dealbata. È in realtà mimosa pudica, è un'altra specie, ma ecco, le foglie sono molto simili. Quella lì è molto famosa, si chiama pudica o pudica, proprio perché chiude le foglie in modo un po' così, si vergogna, piccina. E quindi niente, la mimosa, bella. Bella, bella, molto bella. E, ve l'ho voluto parlare, non che non l'aveste notata già probabilmente. Firenze tra l'altro è piena di mimose, veramente piena, ma non quanto altre città del sud. Vi devo dire che siccome la mimosa un pochino soffre il gelo, anche se ormai sempre meno, cioè tant'è che appunto ce n'è tanta ghetta a noi, però ecco, c'è un po' questa tendenza. E perciò insomma ci sta che qui si trovi un po' meno, mentre invece al sud Italia si trova veramente molto molto di più. Fiorisce tantissimo, bellissima, cioè, penso che si dissemini anche da sola, tra l'altro non vorrei di cazzate, ma mi sa che sì, mi sa che è così. We'll be right back. ragazzi, questo è il momento, ve lo dico, è arrivato il momento, alzatevi dalle sedie, è adesso. E allora continuiamo però a parlare di giallo. Lo so che vi siete alzati alle sedie, non sapete più dove mettere a posto il vostro sedere sculettante, ma infatti io ve lo lascio un po' di sottofondo, perché no, questa bella house avvolgente. Sì, perché il giallo in questa stagione, in questo periodo, segna un po', almeno a me sembra così, segna un po' la fine dell'inverno o l'inizio della primavera. Comunque è uno di quei colori che aprono le porte. Sarà anche per la forza che ha come tonalità, proprio sfacciato anche in alcuni casi, apre un po' le porte appunto alla primavera. E quindi altre piante fiorite di giallo in questo periodo, avete visto le forsizia, forse forsizia, oppure le mimose già dette, i ranuncoli nei prati stanno iniziando a fiorire super carini, i narcisi. La forsizia, qual è la forsizia, ragazzi, lo sapete? Allora, la forsizia, ve lo dico io, è quella che spesso si vede anche nelle ville un po' altolocate o comunque nelle zone Fiesole, Settignano, se ne usa tantissima, che ricade dai muretti. È un arbusto con i rami verdi, assomiglia un po' a una ginestra a volte, però ricadente. In questo periodo dell'anno fa dei fiori gialli molto molto teneri, a 5 petali, davvero belli. È una pianta un po' scomposta, però, cioè, al di là dei fiori, la pianta in sé è un po' scomposta, devo dire la verità. A me piace proprio per quello, perché mi sembra veramente, veramente libera, naturale. Mi stupisce effettivamente, venga usata così tanto appunto nelle ville e simili, ma deve essere anche perché si pota bene, cioè ci si fanno anche le siepi, volendo, comunque dei grandi cuscinoni, topiati, si usa molto in questo senso.

dimostra il coraggio di affermare cosa sei. E vivi là, se superi il tuo limite puoi accenderla.